È l'Ungheria che parla per l'Italia. Su 15.220 kHz, pari a metri 19,71, su 15.160 kHz, pari a metri 19,79, su 11.910 kHz, pari a metri 25,19, su 9.835 kHz, pari a metri 30,50, su 9.585 kHz, pari a metri 31,30, su 7.220 kHz, pari a metri 41,55, nonché su 6.110 kHz, pari a metri 49, onde corte. Buonasera cari amici, un penultimo caloroso saluto dallo studio 16 di Radio Budapest da parte di Anna Dugan, l'ultimo addetto della redazione italiana a Radio Budapest domenica a fare le notizie. È la penultima trasmissione che ora cominciamo con il notiziario. In tutta Ungheria festeggiamenti in occasione del ritiro delle truppe sovietiche dal paese che veramente è avvenuto a metà mese. Nella dichiarazione fatta dal governo ungherese si è definita questa giornata uno dei passi più importanti del processo di democratizzazione, ma il governo ricorda che i sovietici si sono ritirati dall'Ungheria di propria volontà e ha ammonito gli ungheresi a non inventarsi meriti particolari, per di più non esistenti in questo senso.